Buongiorno, io sono Fabiano Tovazzi, ho 70 anni, per tutta la vita ho fatto il barista qui a Volano, sono pensionato ovviamente. Un amico proprietario del fondo in cui ci troviamo adesso mi ha ospitato per fare un po' di orto. Tu vieni, ti do la terra per fare l'orto, però in cambio mi insegni quello che sai. Provengo da una famiglia di contadini. Ho sempre avuto la passione per l'orto e per i fiori. Questa passione ce l'ha insegnata a me e a mio fratello e alle mie sorelle il papà e la mamma. Ce l'hanno inculcata proprio a fondo. Tant'è vero che la mamma, davanti a casa avevamo un pezzetto di orto, ci affidava fin da giovanissimi, 6-7 anni, un pezzo di terra da coltivare. Quello che volevamo, fossero fiori, fossero verdure, con la clausola che fosse ben curato. Per cui fuori dal bar avevo sempre uno stuolo di piante, le donne che passavano si fermavano a guardare, spesso e volentieri davo una piantina, se me la chiedevano dicevano quella non ce l'ho, pronti? Così si convive e si rende felice con niente. Anche l'altra gente, le altre persone. Lei prima infatti mi ha detto una cosa importante, no? Sì, faccio volentieri questa intervista perché uno dei piaceri maggiori che ho avuto sempre per tutta la vita e a maggior ragione adesso che sono in pensione è condividere il mio sapere con chi ha piacere di imparare. Ma proprio anche così come orto. Se uno non conosce una verdura, gliela faccio assaggiare e gli spiego tutta la coltivazione e come eliminare in maniera naturale i parassiti, non coi veleni. È bello vedere la gente che impara e dice: ma questo non l'avevo mai saputo. Noi facciamo coltivazione biologica, io non uso veleni, però giustamente mio nipote si è messo a ridere e mi ha detto: sì, metti un po' di meno veleno. E vabbè, ho detto, piuttosto che niente, almeno so che veleni mangio se dovessi mettere veleno. E come si coltivava quando era ragazzino? Ma era tutta un'altra cosa. Come vigne c'era la cultivar Saibel. Veniva un vinello leggero, valeva poco, non valeva niente anche a venderlo. Adesso puntano giustamente a vitigni da reddito. Da metà agosto a metà settembre si è già effettuata tutta la raccolta. Mi ricordo che la vendemmia iniziava il 1° di ottobre e finiva a fine ottobre, anche primi di novembre. E poi c'è un'altra cosa di differenza nella coltivazione delle viti, e il sesto d'impianto. Adesso fanno filari abbastanza stretti. Quando ero ragazzino io normale era la larghezza dei filari 5-6 metri contro i 4 di adesso, perché nell'immediato dopoguerra che abbondava anche qui in zona era la fame. Allora tenendo i filari larghi, in mezzo potevano mettere una fila di grano turco, una di patate e altre verdure. Com'era un tempo questo territorio? Cosa si ricorda lei? Ma il paesaggio, quando ero ragazzino io, era simile a quello che si vede adesso, tutto vitigni, con la differenza che però allora, in mezzo lungo i filari delle viti, c'erano tanti, tanti alberi di pere e altre piante da frutto. Se ne vedevano tanti, adesso si vedono estensioni senza una pianta alta, ad alto fusto. Sui confini, se c'era un po' di spazio, usavano tanto, tanto mettere il salice per avere le strope, le chiamavano. I tralci legavano le viti e non spendevano soldi perché nel dopoguerra non c'erano soldi, c'era la fame e bisognava adattarsi a quello che c'era. Quando parliamo memorie del suolo, parliamo forse anche di tipo di qualità del suolo. la qualità del suolo è molto precaria perché dal dopoguerra fino adesso hanno sempre usato il rame per irrorare le viti e leggevo che siamo a livelli di saturazione di rame nel suolo, perché è vero che va sulle viti, ma buona parte cade per terra. Dagli anni 50 adesso sono 70 anni e ne hanno buttata roba. Sì, ma poi un'altra cosa da osservare, penso che anche sia cambiato il tipo di atteggiamento verso la terra. Prima tutte le famiglie avevano in casa la mucca, molti avevano il bue per fare i lavori in campagna, tantissimi avevano i conigli e 7, 8, 10 galline era la prassi comune. Adesso questo non c'è più. No, Si può parlare di ritorno alla terra? non si può parlare di ritorno alla terra almeno come era una volta. Anche perché una volta si viveva secondo l'economia povera che c'era. C'è un ritorno da parte di alcuni giovani che amano la terra e amano il lavoro indipendente, però come massa no, proprio direi di no, perché non permette di vivere. Se uno non ha la possibilità di avere la terra sua, è un po' difficile, si può anche prenderla in affitto, però è problematica la cosa. Prendersi cura della terra, che cosa dà a lei e come vede la situazione in genere? Allora, a livello di salute sicuramente è meglio avere un orto, perché le verdure commercializzate nei supermercati, da quando sono state raccolte a quando vengono consumate, passano parecchi giorni. Quando ho voglia di farmi il pesto, vengo, mi prendo quattro foglie di cavolo nero, vado a casa, me le lavo, me le trito, mi faccio il pesto, e quello è fresco, La verdura la mangio 2 volte al giorno, a mezzogiorno e anche a cena, però sono parecchi anni che io in negozio non compro nulla di verdura. Per me è sempre gratificante. Se si semina da sé le piante che servono, vedere lo sviluppo di queste piantine di verdure, soprattutto qua con la pandemia del Covid, ho visto che c'è un grande interessamento da parte di tanti, tanti, avere quattro cespi di insalata o la pianta di pomodori sul balcone. Sì, c'è un buon interessamento. Io da barista vedevo in faccia chi viveva di pane e televisione sul divano e stava a casa tutto il giorno a guardare la televisione. Aveva le gote che cascavano perfino, da mollicce che erano. Chi aveva l'orto lo vedevi perché innanzitutto aveva un bel colorito e non era bianco latte. Viene stimolato anche l'uso del cervello. Si è presenti di spirito, ma si vede proprio nettamente. Qua a Volano ci sono gli orti comunali, ma ce ne sono tanti comuni comunque che hanno adibito degli incolti, li hanno ristrutturati, li hanno messi a posto per chi vuole, pagando cifre, insomma, tutto sommato irrisorie.